acqua e niente, giusto quando facciamo i servizi esterni la notte. Vabbè. Che tipo di pistola avete? 9. 9 lunga? Yes. Fa bella quella pistola. Ce l'avevo anche io quella lì. Poi ognuno può avere la sua, però se vogliono che abbiamo il calibro 9. Ah, ho capito. Sono belle, io ce l'avevo pure la finta di quelle scacciacani. Eh sì, chi si prende la Glock, chi ha la Beretta, chi ha insomma altre marche, ce ne sono diverse. La Glock a quanto mi ha detto Natalino è più precisa delle altre, però non mi piace come estetica, è troppo squadrata come pistola. Esatto, esatto. Poi è leggera perché fa tempo limeri, capite? Tutto sembra tutto plastica, capite? Sembra una pistola di giocattolo, è meglio quella scacciacani. Maledetta, ma già è precisa però. Sì, Natalino mi ha detto che c'è una precisione, vabbè lui ce l'ha, Natalino ce l'ha. È precisa perché anche è meno pesante delle altre, capito? Quindi la gestisci meglio a livello di mira, capito? Quando la tieni impugnata e il braccio vibra di meno tenendo un peso inferiore. Vabbè, certamente che sì. Però, vabbè, ti ripeto, l'estetica non mi piace tanto. Come disegno mi piace più la 9, la Parabellum, io ho avuto la, adesso non mi ricordo che cosa era la mia, vabbè comunque era la 9 lunga. Sì, sì, sì, tutti hanno quella, io prima avevo una Browning, però era 7,65 e poi l'avevo venduta. Era piccolina, ma era una semiautomatica che faceva un casino quando sparava al colpo secco, ti insordava. Sono secondo che spengono il soffitto. Ci deve essere propagazione o c'è qualcuno che vuole entrare? Stavo facendo ascolto su una frequenza radioamatoriale e lo spento perché mi stava dando fastidio. Ehi, anche io ogni tanto qualcosina l'ascolto. Ogni tanto, a volte quando non c'è nessuno, allora accendo la radiolina, ma anche lì non è che ci sia tanto da ascoltare. Ma sui 40 metri c'è molto traffico, poi sulle altre frequenze un po' meno. Sì, qualche volta sugli 80 vado, ma sui 40 metri ce ne sono più, ci sono più persone, più canali, più frequenze occupate. Oia, esci che ci infilo i pesci, sto facendo, abbiamo fatto spesa, ho preso due orate e ho messo le patate al forno e adesso ci infilo i pesci. Cappa, io sono da un bel che non mangio pesce, lo sai, a me il pesce non è che mi incascia assai, lo mangio ma non è che non mi attira più di tanto, molluschi, crostacei, sì, ma pesci proprio no. E invece io prima in passato da ragazzo ero più per gamberi, queste cose qua, e calamari fritti, roba pratica, invece poi adesso preferisco proprio i pesci e poi cambio, a volte prendo, se trovo una spigola, insomma, già ne prendo diversi, capito? Buone sono anche le triglie quando le trovi, quelle rosse, belle, che sono grandette, no? Quelle le fa la Livornese con limone e poco sono buone. Sono maledette perché hanno un sacco di spine, però sono ottime. Sì, alla Livornese sono ben buone, con i pomodorini, eccetera, eccetera, io le faccio così. Sì, sono buone alla Livornese, le ho fatte fare una volta a questo cliente, il giorno dopo le ha comprate, le ho detto come le devo fare, gli ho spiegato la ricetta, tutto qua. Il giorno dopo è tornato, pensavo che mi dovesse sgridare per qualche cosa, invece mi ha detto complimenti, è veramente buono, erano, come mi ha detto lui, proprio veramente buono. A lui vuol dire che gli sono piaciute molto. Sì. Una volta già l'ho fatto una cazzata, è venuto un turista e mi ha detto scusi, devo comprare le sipie, mi fa vedere più o meno come si puliscono? Sì, non c'è problema. Le ho messa davanti, ho aperto la sipia, cazzo è partito l'inchiostro, tipo Fantuzzi, tutta la maglietta è fusa. Vabbè, ci sta anche quello. Ho detto signora non c'è problema, guardi vado a Lupin, prendo la maglietta, gliela pago io, non c'è problema, poi magari se la fa lavare. No, non si preoccupi, non c'è nessun problema, tanto siamo al mare, guardi c'è il costume sotto, non c'è problema, siamo al mare, guardi, la metto a bagno nell'acqua salata, poi già esce, dai, non c'è problema. Ero mortificato. Ce lo credo. Dammi un attimo, Gianni, 5 minuti che le butto dentro il forno, sennò poi non mi cuocio. Vai, vai, mettile al caldo, se no prendono freddo. Gianni, ci sei ancora? Sono qui, l'hai messa a scaldarsi. Sì, avevano freddo, avevano i brividi, l'ho messa a scaldarsi. Beh, lo sai, facevamo... Tempo fa facevamo delle scampagnate, andavamo dove ci sono quei posti con i parchi che si può arrostire, eccetera, eccetera, e portavamo le orate, le facevamo sotto sale, però la griglia, le mettevamo dentro il cartuccio e poi le mettevamo col sale. Ma sai quante erano buone? Così sì che già mi piace. Ho capito. Sì, ma il pesce è sempre tutto buono. Vabbè, io sono anche mandrone per le spine, me. Una volta mi è entrata questa spina nel palato, non riuscivo a toglierla a capo, una cosa allucinante. Anche queste cose un po' mi hanno bloccato, forse. Ogni tanto bisogna cambiare, dai, sennò sempre carne, carne di pollo, carne di fettine, carne macinata e le polpette. Le carne abbiamo più varietà e più possibilità anche di prenderla. Il pesce, almeno io cerco di prenderlo almeno una volta alla settimana. A me mi piacciono i calamari fritti, mamma mia, ci vado male. E lui sì che sono buoni, appena pescati, i dolci, appena fatti, lui. Non mi piacciono quelli congelati, li ho provati, ma sono butti dentro, è tutto impanatura. Sì, esatto. No, belli sono quando li trovi freschi, così, allora sì, fatti, fritti, impanati, buttati dentro, allora quelli già sono buoni, freschi. Ma devi andare al mercato per la roba fresca. Sì, sì, è vero. Già li trovi freschi, ma costano un bel, quello è che ti blocca, perché se prendi un chilo di carne ti fa 2-3 volte, e prendi un chilo di pesce e te lo mangi solo una volta. E molti fanno lo sbaglio di andare presto al mercato, no? Trovi prezzi alti. Poi per farlo fuori, lo stesso pesce magari lo trovi anche 5 euro in meno rispetto al chilo, rispetto a quello che ti hanno venduto la mattina, lo stesso pesce. Sì, anche mamma faceva così, andava, passava più tardi, guardava prima i prezzi, vedeva che erano troppi, poi passava più tardi e lo trovava meno. E allora per farlo fuori, perché se no poi si guasta, del tenerlo troppo tempo non fa il pesce, quindi lo abbassano di prezzo e magari più accessibile, capito? Sì, esatto, poi magari non trovi la scelta che c'è la mattina presto, perché ci sono più specie di pesci, magari trovi le triglie, trovi, che ne so, calamari, trovi i gronghi, trovi pesci da zuppa, magari ci vai a fine mattinata, invece è rimasta poca roba, però magari in quella poca roba riesci a trovare qualcosa di buono. È certo che sì, ma noi al mercato da quando l'hanno fatto nuovo ci sono andato 2 volte, troppo. E io lo stesso, io già ci sono andato, ma non tantissime volte. Stanno restaurando un altro, hai visto? E quale già? Il vecchio? Il vecchio mercato, lo stanno restaurando, poi sicuramente faranno di nuovo il cambio, rimetteranno, penso che facciano così. Perché quello nuovo dice che ci sono perdite d'acqua, un sacco di roba, e ci stanno lamentando i venditori. Mamma mia, ogni volta che fanno le cose nuove, anziché migliorare, si peggiora. Poi era più bello, quello che c'era prima era in 3 piani, non so se tu l'hai conosciuto, c'era giù, c'era la verdura e la frutta, poi al centro c'era il pesce, ma pesce però anche pesci grandi vendevano, tipo so dire cerni e roba così. C'era uno, Sana, che vendeva pesce di prima, basta, vendeva tutta roba fresca, cerne di quelle grandi, anche da 12 kg, di quelle proprio enormi. A me poi le faceva tranche, se non ne volevi una intera te la faceva tranche anche, però io prendo il salmone, il salmone mi piace, il salmone lo faccio con aglio prezzemolo e un po' di pomodorino e appena appena di vino bianco, già è buono. E lo credo, voglia. Io l'ho mangiato da poco, ho fatto grigliato, ho capito, un trancio di salmone, ma era così buono, poi col limone sopra ci dà una spruzzata di limone, buono, buono, buono. No, così non l'ho mai fatto, di solito lo faccio come ti ho detto. È buonissimo il salmone, e solo che so cose che cosa, le puoi prendere una volta ogni tanto, ma perlomeno, per le mie tasche così. E infatti io già l'ho mangiato fuori quello, e siamo andati a mangiare qualcosa fuori, sarà un paio di settimane fa con i miei colleghi, e mi avevo preso questo trancio di salmone con patate arrosto, ma buono, veramente ottimo. Ma gli offerti mi hanno detto che c'è un agriturismo dove si mangia bene e non si paga tantissimo. Gli offerti, non so se sei mai andato tu. Ne ho sentito parlare e ne ho girato tanti. Lì a Fertilia ci sono un sacco di posticini belli dove mangi bene e spendi poco. Ce n'è uno dietro, ce l'hai presente il rifornitore dopo il ponte romano? Proprio dietro il rifornitore rimane, è una specie di bar per aperitivi, però fanno anche roba da mangiare. E lì veramente mangi anche il pesce fresco, tipo i calamari fritti li avevo mangiati lì freschi. Ma buoni, ottimi. Beh, ci credo, lì c'era un posto di mare, poi che lo prendeva roba fresca, sì. E io, guarda, ti dico una cosa, sono fissato, però sono andato in tanti posti, il pesce è buono, calamari, questa roba qua l'ho mangiato solo San Gambino a Porto Torres. Lì hanno sempre roba fresca, c'hanno il pesce in esposizione nella vetrina refrigerata, c'hanno il pesce come tu, te lo puoi scegliere dall'agosta, cosa ti posso dire, vuoi una cernia, vuoi un'orata, te la scegli e te la cucina. Eh beh sì, lì in posti di mare lo credo che già si procura lì da quelle parti, ci sono diversi pescatori che escono proprio, vanno anche in mare aperto a pescare da Porto Torres. Certo che ci sono, a Porto Torres è proprio, ci sono pescherici centenari anche. Io ho un ex collega che il padre aveva un peschericcio che aveva più di 100 anni. Naturalmente il motore ha revisionato, quello che vuoi, ha cambiato qualche trave, qualche cosa, però il peschereccio è centenario. Adesso non lo so, c'avevano anche le pescherie, c'aveva la pescheria a Sorso, a Sassari, e loro facevano, pescavano il pesce e lo vendevano loro da piccolo. All'Antarassi della linea gialla. E a Tonino. L'ho capata. Il tappi che ritorna, ciao, ciao Carlo, ciao Gianni. Qui, sei in lontananza poco fa, come va? In lontananza, cioè? Sembrava in macchina. Ma cos'è macchina? Sono andato a comprarmi la corrente, che stanotte mette il CC a bagno e domani faccio la cicciata. No, a me mi piacciono le fave. Ce l'ho le fave, la giornata della sabuccia, allora vedo i cicci. A me piacciono più le favette. E poi la crema, tutta maglia da dire, il canibus. Ma mi sono intrigato, ma Carlo sempre pensando a mangiare, mamma mia, ha pensato cosa devo cucinare domani, capito? E quindi me la sono preso già tutta la roba. Gianni, niente, mi sono dimenticato di guardare se c'erano i bignè vuoti, non le ho prese alla colla da casa. No, ma già si trovano, ci sono, te l'ho detto, ci sono anche qua. Ma li vende anche di pasticceria se li chiedo vuoti? No, come te ne date? La pasticceria li usano. Ma loro le fanno, scusa, io dico, fanno una ventina, non me ne voleva. Ma non ti conviene che mi fanno pagare una barca di soli, ti conviene andare a comprare una busta di quelli che vendono nei supermercati e te li riempi, ti compri i saccaposci. E mi sa che ne prendo una cinquantina allora sul mercato, ma se no 50. Ah, buono, non so se ti basta la te. E buoni quelli se fai la crema pasticcera. Li riempi con quella e sono ottimi. Sì, le riempio anche con la siringa, col cucchiaio, Oh signor Pozzo, mosso alla bignè vuoto e un cucchiaio, una durda di crema in bocca. E fai prima, così. Ah già, cosa dici? Ah, mi fanno male. Ma è cosa, ho usato la glicemia, pure bassa io, dai. Domani me la rifaccio, dai, la crema, come dico io. Io stamattina quando mi sono alzata ce l'avevo 125. Io 99. E vabbè, io va bene anche 125. Come mi sono alzato però, tutta la notte l'ho tenuta bene, perché ieri ho mangiato le pietole che ti riempiono e poi due uova fritte. Ma cos'era 125 primavera? Ma era truccata però, non era il motore, era di primavera, ma era 50 spicci. Potenze pinasco, no? Marmita super spinta. Ma l'ho detto 96. Io, ma non è di fare le cose, la mangiamo si ci do. Carlo, come ti hai fatto già? Già stavamo parlando di cose buone comunque, giusto per rimanere nell'argomento. Eravamo da un po', prima stavamo parlando di cose più tecniche, di radio, di macchine da gestare, eccetera, e poi siamo passati alla ciberia. Che sta arrivando l'ora, capito? È quello, quando arriva l'ora senti il buco nell'ozono. Oh già, qualche scemo si è messo su 25, sta a fare addosso, lo fai di... Ma qualcuno locale? Ha l'effetto robot. Chi c'è, Luca? Hai visto già? Oi ragazzi, io sono Gui, uno Carlo. No, non Luca tu, no, Luca l'altro. Ah ok, non io, ho venduto. Cosa? Luca LD. Luca! Ehi! Ma non ti funziona l'orologio, ma dentro 10 minuti c'è dubbi di un'ora, ci intenditi. Già, dopo ho avuto un imprevisto, dai. Ho avuto un imprevisto con la signora. Aia. E comunque ho visto cosa devo cucinare per domani sera, la trippa con fagioli. Aiutami, che ci fa venire la fame così. Un po' di formaggio sopra dopo che hai fatto il consulente, te ne immagini. Mamma mia. Tu e fagioli con il tonno e con le cipolle, ma mangiato. Questi mangiano d'estate, non adesso. E chi l'ha detto? Io devo giocare domani giù, va bene, a giocare. In questo periodo qua freddo devo mangiare la favata, la cecciata, la trippa, che cavolo. Ciao Luca. Napoletto col salsiccione, col trombone, col falcone. Luca. Oh dimmi. Riprenditela. Iaia. Senza carbone, sì. E niente, un casino in Germania. Freddo pura. Cancarado. Se non raccomoda io, va a rimanere congelato e ti capito, ti prendo, non vedo l'ora di entrare a casa, cazzo. Avete fatto bene che me l'avete detto, adesso mette giù un botto grosso. Anche se no, venga a careggia come l'altro giorno. No, io avevo solo le mani cancarate, il resto va bene, c'ho il giubbotto, il giumino, quindi stavo bene. Il fattore è che le mani ghiacciate. Sì, ma io ci guanti me li metto, ma sai. Ma chi ce l'ha i guanti? Mi sono dimenticato di prenderli. C'ho la cuffietta, la salpuzza. 4 gradi, stavo guardando adesso, e scenderà ancora. Intorno a mezzanotte scende a 2 gradi. E nevica, perché ha detto che nevica va anche nelle basse. Ma avete sentito che c'era pericolo di tsunami? Che ci fosse il maremoto? Guarda che la Turchia e la Siria sono più distanti. Sì, ma poi è entrato comunque quell'allarme, era per Sicilia, Calabria, Puglia, se arrivava qualcosa poteva toccare quelle zone lì. Ma no, non ci viene nessuno già adesso, cioè, ci tolgono i voli della continuità, non ci viene più nessuno. È un casino, ma quel palazzo l'ho visto crollare come una piuma ne scende. Ma voi lo sapete perché ci sono questi grossi terremoti? E ancora più avanti ce ne saranno ancora più grossi. Perché sta per arrivare la fine del mondo. Allora, ancora questi esseri umani, questi che sono ricchi e straricchi, vogliono ancora arricchirsi di più, stanno distruggendo la terra. Allora, tu da una persona indugi il sole di sangue, il sangue uscì domani, dopo domani, per fine che si sciara. Così la terra le sta togliendo petrolio, le sta togliendo il gas, il ferro, il rame, l'oro, l'idro, che d'accio. Ovviamente gli sta togliendo tutte le sostanze che la terra sta svuotando. E ovvio sono i terremoti. Alla fine dice, beh, piedi la luce, salve in due, buonanotte. Davvero, alla fine rimarremo pochi pochi. Comunque hanno scoperto un pianeta simile alla Terra, dice che si può anche andare ad abitarci, però è un po' lontanuccio. E ci vuole soldi per il biglietto, non ce l'abbiamo. Biglietto di sola andata, dice che fanno. No, poi non so più terrestre, diventerò luna. Che pianeta è? Dov'è? Oltre il nostro sistema solare. Eh sì, chissà dove diavolo è. Comunque dice che l'hanno scoperto gli scienziati e pare che ci sia vita e che sia vivibile, che c'è ossigeno, e quindi simile alla Terra, dice che. Ci sono anche gli alberi. Esatto, così dicono, poi è tutto da vedere. Se c'è anche il mare, ci sono i pesci. Gianni, io preparo la canna e andiamo a pescare. E Tony, magari non ci sono le donne. Ah, come fa? Ci sono le scimmie, lo dai gioco. Minca. Luca, senti cosa stiamo dicendo. Ehi, io mi sento, sì. Ciao, ti fai una scimmietta. Ma carità. No, voglio niente. Va bene, ma che crede in certe cose? Ha detto che verranno gli extraterrestri a salvarci. Esita lì via. Esi che giro le orate, va, così almeno te mangia. Allora vedi, lui c'ha le orate e tu non dici nulla, no? Orate con patate. Orate fratte, già sono buone anche quelle. No, io per andare leggero stanotte mi faccio la bella pasta asciutta al ragù, che è buona. Quella l'ho mangiata stamattina a pranzo. Io per gli occhi alla campidana. Quindi mi invito a mangiare lì, ho mangiato pollo con patate. Bene, Meda, dai, io c'ho da portare avanti qua tutta la faccenda. Se coincide magari che ci siete ancora, ci sentiamo più tardi, perché mi devo sporcare le mani adesso un attimino e quindi non posso stare al microfono. Vi saluto per oggi, credo che sia tutto, dai, per quanto riguarda la radio. Ci sentiamo alle prossimine. Gianni, ti faccio sapere appena è fatta quella roba, già ti invio la foto, capito? Così appena arriva ci sentiamo e te la consegno. Ok. Andrave, ti volevo chiedere una cosa, se sei mai andato a ascoltare questo Giorgio Caria su internet. Vai, che è molto interessante quello che dici. Giorgio Caria, dopo me lo guardo, dai. Questo qua è uno stigma, vabbè, c'ha le stigma. Già me lo vedo dopo, ma su YouTube oppure lo cerco così su Google e me lo fa vedere lui. Su Google cercalo, tranquillamente. Ok, dai, ci sentiamo. Ciao Tonino, ciao Luca, e non so chi altro ci sia in ascolto. Se c'è qualcun altro, tutti salutati. Cioè, ascolto il vostro finale e mi metto a fare, dai, vi ascolto un pochettino. Ok, ciao Carlo, anch'io, cavolo, visto che sono le 8 passate, mi devo andare a telegiornale. Ok, buona carica, semmai ci sentiamo dopo, non c'è problema. Ciao anche Gianni, buon carico, non lo farai. Ciao Luca, buon carica. Saluto l'eventuale persona in ascolto, ci sentiamo. Ciao, ciao a tutti, caro, cuoretti per me. Ciao Tonino, ciao Luca e ciao anche Carlo. Ok, ci sentiamo, ci aggiorniamo, dai. Ci sentiamo. Buona giornata, buona serata a tutti e buon cuore di ciao ciao. Ciao ciao.